sono ferite, sono ferate il verbo. Oh, la ma grazie a Will and the House. Dove grazie cazzo a tutti vai? Gli stronzi che non supportano. Basta con ste auto. Slang, il dialetto della vaffanculo. Sonny the dog. Sei un lapa. Ascolto sto pezzo, voglio Sonny. Lo capisco. Oh, lapa, Sonny. Non ci spaziare che vengo sotto casa tua. Non ho confuso mai il piacere con la dipendenza. Sta musica è astinenza per chi aspetta ancora una carezza come me. È troppo facile buttarsi giù, coprirsi gli occhi con le mani e non vedervi più. Io che pensavo che tutto fosse più semplice, poi con l'età che avanza in lontananza scorgi un termine. Che poi puoi avere amici, fama, droga e pure femmine. Ma se non lecchi il culo tra che non arrivi al vertice. Questa è la triste storia, la triste troia. Lo stesso triste paese che ogni giornata ci annoia. E non venirmi a dire che non ho ragione. Per sti bigotti del cazzo ogni stronzata è una questione. Scaricare la tensione, io non lo faccio spesso. Sarà per questo che a dormire proprio non ci riesco. Un passo in più per la gente che mi sta accanto. Per chi pure su al polo riesce a farmi sentire al caldo. Vai! Ehi Jaurila, come stai? Ti va tutto bene? Mi basterebbe essere un passo in più da questa città. Vuoi fingere ma niente va per il verso che deve. Mi basterebbe un passo in più, solo un passo in più. Ehi Jaurila, come stai? Ti va tutto bene? Mi basterebbe essere un passo in più da questa città. Vuoi fingere ma niente va per il verso che deve. Mi basterebbe un passo in più, solo un passo in più. Un passo in più per chi ci crede, un passo in più per la mia fede. Un passo oltre la parete della noia e della quiete. Io ho ambizioni da buttare dentro rete. Lo faccio di collo piede, dal campetto fino al marciapiede. Questa corsa non è una gara, chi è più fragile. La vita non è una partita, chi è più indispensabile. Comunque credo che ogni esito sia ribaltabile. Che normalmente il vincente è di sempre vulnerabile. Se chiudo queste rime lo faccio per me stesso. Un tale una volta mi ha detto: tu hai talento, non sprecarlo senza senso. Ti prego, io non lo farò adesso. Sono molto scettico su questo, lo ammetto. Il tempo passa ma intanto ce ne scordiamo. Milano è sempre più grigia ma manco ce ne accorgiamo. Io vivrò in eterno dentro il mio diario. Se domani morirò ricorda me come quello che ci ha provato.